pensavo per questa nostra meditazione di questa mattina di tornare sul Vangelo che abbiamo potuto leggere, ascoltare e anche meditare ieri nella terza domenica di Pasqua, il Vangelo dell'apparizione di Gesù ai due discepoli di Emmaus. È una delle apparizioni con più dettagli, no? Raccontata dai Vangeli. E per questo è molto facile, in un certo senso, portarla all'orazione e cercare di trarne molti insegnamenti, no? E anche ci può aiutare in modo particolare, come tutti i brani del Vangelo che ci mettono a contatto diretto con Gesù, a parlare con Lui nella nostra orazione. Il Vangelo narra così: ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Allora, proprio ieri, mentre lo leggevo, no, durante la messa, questo Vangelo, mi è venuta in mente una cosa a cui non avevo pensato forse mai, no? Che Gesù aveva promesso, lo si legge nel Vangelo di Matteo, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. E allora ho pensato, è vero, questi due sono insieme, sono riuniti, e il motivo è Gesù, è il fatto che sono suoi discepoli. Anche se noi abbiamo, e anche comprensibilmente, penso che sia coerente con il Vangelo, caricato un po' in tutte le letture che abbiamo fatto, e ha ragione, nel senso che questo allontanarsi da Gerusalemme come un allontanarsi dal luogo dove c'è la chiesa di allora, dal luogo dove Gesù è stato crocifisso, da dove è risorto, e anche se può essere che il loro allontanarsi sia anche causato da una serie di fatti della loro vita ordinaria, dovevano ricominciare il lavoro, no? Dopo la Pasqua, non è detto che abbia nella storia questo loro andare verso Emmaus un significato di fuga, ma senz'altro invece sono tristi, come si legge dopo nel Vangelo, si fermarono col volto triste, senz'altro non hanno fede nella risurrezione di Gesù, quindi questi sono fatti che sono documentati dalla narrazione del Vangelo. Ma il fatto di stare insieme è perché sono discepoli di Gesù, due di loro, dice San Luca. E allora, certo, è interessante vedere cosa dice prima San Luca, cosa racconta il Vangelo. E racconta quello che poi loro dicono a Gesù, che le donne erano andate al sepolcro e lì non trovano il corpo di Gesù, e mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante, e le donne impaurite tenevano il volto a terra, chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quindi sono varie donne che vedono l'angelo, ascoltano le sue parole, i due angeli, e poi raccontano tutto questo agli apostoli. Quelle però, gli apostoli però non credono. Quelle parole parvero a loro, agli apostoli, come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. Sono due di loro, sono due di questi discepoli di Gesù che hanno ricevuto l'annuncio delle donne e però non hanno creduto loro. Ciononostante stanno insieme, cioè si sostengono a vicenda. Infatti lungo il viaggio parlano di queste cose, cercano di capire. E anche sono molto colpiti da tutto quello che è successo, non solo dalla morte di Gesù, ma anche dal fatto che nel sepolcro non c'è più, e anche da questa apparizione degli angeli, da quello che le donne hanno detto, perché dicono poi nel parlare a Gesù: ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Quindi sono colpiti, stanno ragionando su queste cose, non hanno ancora però la luce della fede, non hanno ancora fatto questo passo, e però stanno insieme, si sostengono a vicenda, non stanno da soli. E mi è venuto in mente, forse, ecco, Tommaso era un po' invece, forse, isolato, no? Non cercava la compagnia degli altri, questo ha fatto in modo che non stesse con loro quando Gesù è apparso, oppure a Maria Maddalena Gesù è apparso che lei stava da sola, però era andata lì al sepolcro con gli altri due, era andata a chiamarli, Pietro e Giovanni. Sono Pietro e Giovanni che si sono persi quell'apparizione, perché se ne sono andati via e senza preoccuparsi di lasciare sola Maria Maddalena. Non è Maria Maddalena che ha scelto di stare da sola. Lei invece aveva cercato la compagnia e il conforto degli apostoli, di Pietro e di Giovanni. Senz'altro possiamo dire che tu, Gesù, hai una particolare predilezione per coloro che hanno una sofferenza causata dalla tua assenza. Maria Maddalena che piange, i discepoli di Emmaus che sono tristi, ma possiamo anche dire che prediligi di apparire quando i discepoli sono in qualche modo, anche se per questi due non c'è ancora la fede, che è il motivo più importante dello stare insieme, è il legame più profondo dei discepoli di Gesù, però se non altro rimane comunque una compagnia umana molto forte che permette a loro che Gesù appaia. Si sostengono a vicenda, si confidano. Nessuno dei due è in grado di avere quella luce in più per aiutare l'altro, però almeno stanno insieme, fanno la strada insieme. E questa è una motivazione, così mi è venuto in mente collegandola con quell'altra parola del Signore: quando due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù dà la dimostrazione che questo è vero sempre, anche se noi non lo riconosciamo, anche se noi non lo riconosciamo. E certo, questo essere, come dice il Vangelo, i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, noi non possiamo arrivare a dire che è per la loro mancanza di fede, forse sì, ma anche perché è una scelta che il Signore ha fatto, che il suo corpo risorto non sia immediatamente riconoscibile, che forse anche aiuta noi che non abbiamo visto il suo corpo risorto nell'ordinarietà della vita della Chiesa a non preoccuparci quando ci sembra di non vederlo e dobbiamo arrivare alla sua presenza solo con la fede. Credo, Signore, che sei qui, che mi vedi e che mi ascolti. E in effetti quello che accade dopo è che Gesù non solo sta in mezzo a loro e cammina con loro, e quindi condivide un tratto della loro vita, della loro strada, anche ascolta le loro problematiche e a un certo punto però fa una domanda ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? E tu, Gesù, vuoi che loro comincino a rivolgersi a te, a svelare a te i motivi della loro tristezza. E si fermavano, anche se col volto triste, anche se tu questi motivi li conosci perfettamente, li sai già tutti fin dall'inizio. Se volete, così come questo brano di San Luca si può, soprattutto nella seconda parte, applicare alla liturgia, alla messa, prima alla liturgia della parola, le scritture lette e spiegate, o in questo caso ricordate, no? E spiegate, e poi l'incontro con Gesù nell'Eucaristia. Però si può applicare, per esempio, alla nostra preghiera, alla nostra orazione. Anche, vi ricordate San José Maria in un'omelia che dice che quando appunto abbiamo un problema di andare all'orazione, di andare davanti al tabernacolo, di confidare il nostro problema, e dice arriva subito la luce, o perlomeno la forza di sopportare quella situazione. E così come potremmo anche applicare questa pagina del Vangelo all'apostolato nostro e di tutti i cristiani che si fanno vicini ai loro amici e conoscenti e fanno la strada insieme a loro e anche fanno al momento opportuno una domanda che facilita la confidenza. E in effetti la prima risposta è di Cleopa. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? E gli risposero. Ecco, a questo punto è un'altra delle cose che, leggendo ieri questo Vangelo, proclamandolo, no, durante la messa, mi è apparsa particolarmente bella e luminosa. Cioè non è solo Cleopa che racconta, ma tutte e due gli risposero. Fra l'altro, da quando ho visto in un libro di liturgia e di arte un affresco in un monastero orientale, no? E in cui c'è l'episodio di Emmaus, con tutta serenità l'altro personaggio viene identificato con Luca, qui Luca e Cleopa che mangiano con Gesù, che si siedono a tavola con lui allo spezzare del pane, lo riconoscono e poi vanno dagli apostoli a raccontare, no? Che cosa è successo. Da quel momento, tutte le volte che leggo questo Vangelo, mi viene in mente questa interpretazione, che l'altro è Luca che mi sembra molto suggestiva, perché è bellissimo scoprire che appunto quando loro hanno visto Gesù, hanno creduto in lui, lo hanno visto allo spezzare il pane, poi si rinnova la loro fede, cioè ritrovano la fede e come dono del Signore che li spinge dal di dentro all'apostolato, cioè a narrare che Gesù è risorto e chi è Gesù. E questo, se per caso fosse vero che San Luca è l'altro dei due, pensate che frutto meraviglioso ha portato con il suo Vangelo e con gli Atti degli Apostoli, no? Come questo nostro fratello nella fede ci ha raccontato Gesù, con tanti episodi nuovi, no? Che non hanno gli altri evangelisti, l'annunciazione di Maria, la visita a Elisabetta, la nascita di Gesù a Betlemme e così via, no? Tutti i misteri della gioia e le parabole della misericordia, il figlio al prodigo e poi il buon ladrone che si converte sulla croce. E loro raccontano, no? Raccontano a Gesù quello che è successo e lo raccontano con molta precisione, e questo è molto tipico di San Luca, storico. Oppure potremmo dire bravo giornalista, con molta precisione, solo che appunto non hanno creduto ad alcune donne delle nostre che ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, non credono, no? Anche loro pensano che sia un vaneggiamento, i quali affermano che egli è vivo, anche se comunque non lo escludono del tutto, che sia vero. E però alcuni dei nostri sono andati alla tomba, hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. E l'altra cosa che mi ha colpito in questa lettura del Vangelo di San Luca sui discepoli di Emmaus è che Gesù non li ha rimproverati per non aver creduto, che avrebbe potuto farlo probabilmente, no? Alle donne che lui in qualche modo gli ha mandato, agli angeli che lui ha mandato, no? Inviati del Signore, no? Messaggeri di Dio, avrei potuto dire stolti e lenti di cuore a credere alle donne che vi hanno detto questo, no? Oppure agli angeli che... E invece dice loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. O avrebbe potuto dire stolti e lenti di cuore nel non credere a quello che io lungo questi anni vi avevo detto, no? Vi avevo anticipato. Quindi li riporta alle scritture. E che bello vedere com'è importante per Gesù la rivelazione che è contenuta nelle scritture. Senz'altro fa, come dire, anche una sorta di primo discorso anche teologico, anche con una dimensione apologetica, no? E vedete che quello che è accaduto corrisponde a quello che era stato già narrato, rivelato e noi pensiamo che quando mi torna in mente che nella vita di San Giovanni Paolo II in una delle biografie si legge che quando lui si riuniva con i suoi collaboratori, con il suo consiglio episcopale e naturalmente arrivavano, come è ovvio, come sempre succede in tutta la Chiesa, no? su quel tavolo i problemi, no? E allora lui narra il biografo che lui, prima di affrontare il problema, incoraggiava gli altri e diceva: quale aspetto della nostra fede, quale aspetto della rivelazione dà luce al problema che adesso qui noi dobbiamo risolvere? E quindi è un dare molta importanza alla Sacra Scrittura, alla rivelazione di Dio e quindi al contenuto della nostra fede nella nostra vita quotidiana, nell'affrontare quei problemi che ci vengono proposti dall'esistenza, anche dal nostro compito nella Chiesa, dalla nostra vocazione, dalla missione che il Signore ci ha dato, dal nostro lavoro, dalla nostra vita quotidiana. E noi possiamo chiedere allo Spirito Santo, no? E illuminami, o all'angelo custode che ci ispira sempre, no? Quale parte del Vangelo o della Sacra Scrittura mi può aiutare in questo momento, no? Della mia vita o della mia orazione. Anche ieri il Papa nell'Angelus accennava a questo aspetto: quando siamo tristi, prendere il Vangelo, no? Lo facevano anche i primi cristiani, no? A volte anche così raccontano, anche così aperto un po' a caso, basta qualche parola della scrittura che subito ci riporta a una visione della fede. Ma noi possiamo, anche avendolo conosciuto, ecco, lo ascoltiamo tutti i giorni nella liturgia, la Sacra Scrittura ci viene offerta, poi la leggiamo personalmente, la studiamo, allora possiamo chiederci e chiedere allo Spirito Santo quale parola del Signore mi viene bene in questo momento. Tante volte notiamo che la stessa liturgia ci risponde, la liturgia del giorno, e quello che ha fatto Gesù con questi due nostri fratelli. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. E non ci dobbiamo sorprendere se tu, Gesù, fai sempre così, cioè non ti imponi, no? Tranne in qualche raro caso in cui, ecco, come è successo con Saulo di Tarso, no? Cioè gli appari in modo incontrovertibile, no? Però è più abituale questo tuo anche rispetto della nostra libertà, no? Vuoi che la nostra libertà si eserciti, ti chiediamo noi di rimanere con noi, ti invitiamo noi a cena, ti invitiamo noi nella nostra locanda. E il Papa Benedetto XVI, nel suo libro su Gesù, prende quella frase che è sempre di San Luca negli Atti degli Apostoli, in cui all'inizio sintetizza tutte le apparizioni che hanno ricevuto, e le spiega come con tre momenti, anche se è lui che li mette in evidenza, no? Dice cita la traduzione italiana ufficiale: si mostrò ad essi durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, e mette in evidenza questi tre momenti che sono caratteristici di tutte le apparizioni: apparve, parlò e stette a tavola. E poi nello stare a tavola nota che il verbo che San Luca utilizza, synalizomenos, significa letteralmente mangiando con loro del sale, che ha un riferimento ai banchetti dell'Antico Testamento, dove mangiare pane e sale, o anche solo sale, serve a suggellare solide alleanze, sale considerato come garante di durevolezza e rimedio contro la putrefazione, no? Quindi questo tipo di banchetto rimanda all'ultima cena, alla nuova alleanza, e quindi questo è quello che era il verbo che usa San Luca negli Atti degli Apostoli. Quindi questi tre momenti, apparire, parlare con loro del Regno di Dio e stare a tavola in una dimensione conviviale che significa alleanza, e ci aiuta a pensare che anche lo sviluppo della nostra relazione può essere così, cioè noi arriviamo tristi o comunque con qualche problema, e il Signore in qualche modo è presente, poi con la sua parola ci illumina e alla fine si consolida l'alleanza. Questo è anche quello che accade nella messa. Arriviamo con tutto il carico della nostra vita e gli chiediamo perdono all'inizio, no? E confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, e poi c'è la Sacra Scrittura che ci riscalda il cuore, e poi c'è l'incontro con Lui, no? La comunione con Gesù, e che poi senz'altro, come è accaduto a questi nostri fratelli, loro si dicono l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre gli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio, fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. E ritornano nella comunione della Chiesa e portano il loro contributo di testimoni della risurrezione. Nella Evangelii Gaudium il Papa Francesco, verso la fine, punto 275 e seguenti, parla dell'azione misteriosa del risorto e del suo spirito, che ridà slancio e fede al nostro apostolato, no? E dice: alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare, dunque per loro è inutile sforzarsi. Con questa mentalità diventa impossibile essere missionari. Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. Altrimenti, se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazione, come dice San Paolo ai Corinti. Il Vangelo ci ricorda che quando i primi discepoli partirono per predicare, il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola. Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Tu, Gesù, sei con noi, no? E confermi la parola, la tua parola che noi diciamo. E Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che gli ci affida. Noi vogliamo, ecco, in questo momento rinnovare la nostra fede nella tua presenza di vivo e di risorto, risorto e vivo, che sei in mezzo a noi, anche quando magari ci troviamo per dirci qualcosa che magari non ci sta tanto aiutando a rinnovare lo slancio, la speranza, la fede. Ci stiamo solo confidando e ci rattristiamo un po', no? Delle problematiche del presente. Invece tu sei lì che ci ascolti e poi comunque ci vuoi dare una scossa e una speranza. E il Papa dice che questo accade sempre nella Chiesa, no? La sua risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo, dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista, vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze, crudeltà che non diminuiscono, però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende a sempre a ritornare, a sbocciare e a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita, trasformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme e di fatto l'essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della resurrezione e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo. Quindi sono molto belle e forti queste parole. Noi crediamo che è così, no? Concludiamo la nostra meditazione con un atto di fede anche nel fatto che ciascuno di noi, come discepolo di Gesù, come evangelizzatore, è strumento di questo dinamismo, cioè che tu, Signore, ti servi di noi come delle donne, come degli angeli, come dei discepoli di Emmaus quando hanno ritrovato la fede per portare l'annuncio forte della tua risurrezione. E la Madonna, che è sempre, come dire, in qualche modo dietro le quinte in queste scene, lei sì, che non ha mai perso la fede, lei ci accompagnerà sempre.